Questi erano Ready for con il brano Enemy Like This. Allora, avevamo detto di una lettera dal carcere che andiamo a leggere ora. Poco fa annunciato anche di questa iniziativa che si terrà a Napoli in solidarietà con il compagno Marco Kamenisch, rinchiuso nel carcere di Landsberg. In Svizzera, un'iniziativa dove ci saranno dei pannelli, i pannelli della mostra che i compagni delle Alpi Occidentali hanno messo a disposizione, liberi da scaricare, quindi anche chi è in ascolto e vorrebbe fare la stessa cosa nella propria città può farlo. Li può trovare sia sul blog di Radiazione, i link per andare a scaricare i pannelli della mostra per Marco, oppure sul sito di informazione.info. Allora, quindi penso che avete capito che la lettera che andremo a leggere è proprio una lettera di Marco. Iniziamo la lettera direttamente. Amiche e amici e compass. Dal 18 al 25 gennaio 2013 riprendo l'iniziativa, sempre debole ma pur iniziativa, di uno sciopero della fame per interrompere ancora i lunghi silenzi imposti dalla repressione e dell'inazione, per alzare ancora una voce debole ma meno voce, di solidarietà, d'apprezzamento e partecipazione alle iniziative di chi continua ad agire e costruire solidarietà e lotta attiva, di chi continua ad osare ed a crescere continuità fuori e dentro le galere. Questo è un caloroso e commosso abbraccio fraterno alla compagna Elisa nel carcere italiano e al compagno Gabriel nel carcere tedesco. Per la parte specifica e mia solidarietà della loro iniziativa dello sciopero della fame a staffetta nell'ultimo mese di dicembre 2012 e di partecipazione incondizionata allo spessore generale della stessa iniziativa, mandando anche io, insieme a loro, come dicono questa sorella e compagna, e questo fratello e compagno, la mia complice solidarietà a tutti i degni prigionieri in lotta sparsi per il mondo. E parte enorme anche di questa mia iniziativa sono i saluti ed abbracci alle sorelle e ai fratelli colpiti dalla repressione, i fuggitivi, le fuggitive, e dell'azione diretta in ogni parte del mondo, dell'Italia, della Grecia, del Sud America, dalla Russia, in Indonesia, agli USA. È un caloroso e commosso abbraccio a chi in Svizzera, in Belgio e dappertutto, come la SRI, Soccorso Rosso Internazionale, e molti altri gruppi specifici e misti di individui rivoluzionari all'insegna della solidarietà contro la repressione. Oltre le tendenze, continuano ed aumentano in questo periodo gli sforzi per la mia liberazione e per la liberazione di tutte le compagne prigioniere e compagni prigionieri del mondo, anzitutto quelli e quelle di lunghissima durata, colpiti dall'infinità e di impotente come la nostra salda solidarietà e resistenza rivoluzionaria, sede di vendetta degli stati capitali come contro il compagno Ibrahim Abdallah in Francia, Mumia Bucamal e gli altri tanti altri negli Stati Uniti, i compagni del caso Security in Argentina, insieme alla schiera di tutti gli altri. Ed è una volta ancora solidarietà e partecipazione all'iniziativa e profondo segno d'ira contro l'annuale incontro del gennaio del WEF a Davos. Contro questo incontro della più squisita tra le faccia terrorista del mondo, contro questo incontro tra ricchi e potenti assassini e sfruttatori del mondo, insieme alle legioni loro lacchè, sbirri politici, esperti, scienziati e giullari della cultura dei media, che come feccia solo fare, sempre nuotano in superficie della brodaglia avvelenata, nauseabonda e resa sempre più mortale dai loro stessi, solo per affermare ed aumentare il privilegio della loro ricchezza e del loro potere sul mondo. Quest'anno riscoprono l'acqua calda di un'interazione del Global Risk 2013, di un'urgenza d'azione contro una costellazione e conseguenze potenzialmente gravi dei più grossi fattori di rischio, cioè il divario tra i redditi e i forti squilibri nei bilanci degli stati, insieme alle, tra parentesi secondarie, conseguenze del cambiamento climatico. Temono il rischio pandemie causate dalle resistenze degli antibiotici, il rischio dell'aumento delle malattie croniche, anche queste minacce. antieconomiche di genuina produzione della loro stessa economia industriale, stragista ed ecocida. Rischi perché cosa? Naturalmente per la crescita economica globale. Allora, quali le priorità assolute? La tenuta nazionale contro i rischi globali affinché i sistemi di importanza vitale, naturalmente per la crescita economica globale, rimangano in funzione anche nel caso di un disturbo massiccio, e d'altronde un'urgente collaborazione internazionale di innovazione accresciuta. Da non sottovalutare sarebbe poi il rischio dell'accesso sempre più massiccio all'informazione su internet per i suoi effetti democraticamente, destabilizzanti, e poi tra virgolette sick, che sarebbe un segno di schifo per chi non lo sapesse. Questi assassini globali e totalitari, per i quali è imprescindibile il divario tra i redditi e gli forti squilibri nei bilanci degli stati dai loro depredati, per i quali ed il loro sistema è imprescindibile la catastrofe umana ed ambientale, di enormi sofferenze, stragi, annientamenti planetari che sminuiscono come rischi, di nuovo ci presentano come soluzione ancora più divari, squilibri, catastrofe ed annientamento, per cui ancora più totalitarismo, ce la posso fare, nazionale, globale, innovante, vale a dire controllo dell'incontrollabile per mantenere in funzione, costi quel che costi, i sistemi di questo loro sistema, che è la causa e radice stessa di questi e degli altri 50 rischi che citano e degli innumerevoli che non citano, perché cavoli loro, di quelli in basso che nutriamo di guerra, di manganello, di carcere e di miseria per il nostro profitto. Nulla di nuovo dunque, dimostrano con sfrontata ed imbecille chiarezza una volta ancora che sono loro e il loro sistema è il problema sempre più urgentemente da rimuovere radicalmente e totalmente. Via il WEF, via lo Stato capitale, liberi tutti. Marco dal Lager di Landsburg, gennaio 2013. Ora ci andiamo ad ascoltare un paio di brani, uno lo dedichiamo a Marco, Fireway dei Blue Tangle, e poi dopo The Don't Fall dei The Chameleons. Yeah. quindi dopo Blue Tangle con Fly Away e The Chameleons con Don't Fall, andiamo un attimo indietro col tempo, prima, come introduzione alla prossima lettera che arriva da un altro carcere, questa volta dalla Francia. Praticamente, verso la mezzanotte del 1º maggio 2009, una bomba esplode in una fabbrica abbandonata vicino a Chambéry. Zoe perde la vita, Mike rimane gravemente ferito. La polizia dirà che i due stavano preparando un ordigno esplosivo e in seguito Mike ammetterà di aver confezionato la bomba insieme a Zoe, sempre negando una questione di intenzione, una qualunque intenzione sovversiva quanto al suo utilizzo. Visto che i due sono schedati come anarchici e l'antiterrorismo che viene incaricato per le indagini. Altre quattro persone vengono messe sotto inchiesta con l'accusa di aver ripulito dopo l'incidente il furgone di Mike e il domicilio di Zoe da materiale scottante, in realtà per lo più libri e scritti anarchici. La condotta di queste persone al momento dell'arresto varia molto, si va da un comportamento degno al fare dichiarazioni su se stesso ed altri, fornendo indicazioni su una persona ricercata come fa J. Puntato, fino al limite di William che inventa particolari su obiettivi immaginari della bomba e altrettanto immaginari e scorte di clorato di sodio. Alla fine il caso viene derubricato dall'antiterrorismo al diritto ordinario. Nel maggio 2012 Mike e tre suoi computati vanno a processo, il quarto non è giudicabile grazie a un cavillo tecnico. Anche in questa occasione diversi sono gli atteggiamenti in rapporto alla giustizia, c'è chi sottolinea il suo reinserimento, chi minimizza il proprio operato a scapito di altri e chi assume appieno le proprie idee e scelte. Allora, la prossima lettera è quella che andiamo a leggere, è quella di Mike, direttamente dal carcere di Chambéry. Inizia la lettera con il cuore in gabbia, la rabbia nel cuore. Dal 7 gennaio sto scontando una pena di 4 mesi, dovuta alla fabbricazione di un ordigno esplosivo che nel 2009 ha causato un'esplosione accidentale durante la quale la mia compagna Zoe è morta ed io sono stato gravemente ferito. Non voglio che vi impietosite sulla mia sorte. Non sono una vittima innocente di fronte a una giustizia sproporzionata, ma un individuo fra gli altri che non ha voluto entrare nella triste realtà che la società gli riserva e che lo Stato rinchiude per accrescere il proprio controllo e cercare di mantenere la propria autorità. Non sono un'avanguardia rivoluzionaria che mostra un esempio da seguire o che cerca di soffrire per fomentare la rivolta dei compagni. Non sono altro che un individuo che cerca un'emancipazione collettiva attraverso una distruzione delle strutture sociali e delle norme che fanno comodo allo Stato e al capitale. Pur avendo dei desideri rivoluzionari, rifiuto la separazione tra prigionieri sociali e politici e mi considero prigioniero politico allo stesso titolo di tutte le altre persone rinchiuse. Non sono altro che un essere umano che ha sete di libertà e che cerca di vivere e di lottare secondo la sua etica antiautoritaria in una società costruita sull'oppressione e il dominio e che logicamente subisce le conseguenze delle sue scelte. Se la mia situazione provoca della collera, ciascuno è libero di coltivarla e di darle la forma che desidera. Che la rabbia non si stemperi a causa della paura, viva le rivolte, che crepino le prigioni e questo mondo cementificato di merda, libertà per tutti e tutti. Mike. Questa era la lettera che ci arrivava direttamente da Mike. Noi l'abbiamo presa dal sito di informazione, dove penso che sia arrivata lì direttamente. Qui a redazione non era arrivata, però ovviamente controllando anche i siti, altri siti, si vanno a prendere anche altre notizie, altre lettere che a redazione non arrivano. Allora, ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Society Burning, il brano è D.O.E. Mix, e poi dopo torniamo qua per un altro paio d'azioni, e poi dopo non lo so. Allora erano Suicide Bunning, prima avevo detto D.O.E. Mix, non è proprio il vero titolo, praticamente è un mix di D.O.E. ma il brano di Suicide Bunning è Worcester. E allora si ritorna un attimo in Grecia per poi saltare direttamente in Indonesia. È tutto collegato perché il prossimo aggiornamento sullo stato di salute del compagno membro delle CCF, Panagiotis Agirou, che praticamente il 15 gennaio i medici dell'ospedale di Triassio hanno sospeso il trattamento del compagno anarchico Panagiotis con il farmaco narcotico che lo teneva sedato. Non ha ancora ripreso piena conoscenza, ma le sue prime reazioni sono promettenti per il miglioramento della salute. Forza per il nostro compagno. Invece, dall'Indonesia arriva un incendio di un veicolo da parte della cellula Agiru. International Conspiracy for Revenge, Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale. Andiamo a leggere direttamente la rivendicazione. La scorsa notte, a 10 gennaio 2013, l'abbiamo fatto di nuovo. L'azione diretta basata sui nostri valori rivoluzionari come nichilisti, come individualisti e come espressione dell'odio verso questa società. Coperti dalla notte abbiamo bruciato un'auto privata a Tomon, piccola città del sud di Sulawesi, di proprietà di una persona sconosciuta. Era una macchina situata vicino alla locale stazione TV di questa città, una macchina come simbolo di schiavitù, disastro ecologico e insensatezza della vita. Crediamo che attraverso l'azione diretta ogni rivoluzionario possa parlare, anche separato dai continenti e dai confini delle nazioni-stato. Crediamo che ogni azione rivoluzionaria parla a voce alta e raggiunga le nostre sorelle e i fratelli della Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale. Dedichiamo la nostra azione al nostro fratello in armi, Panagiotis Agirou, rivoluzionario e fiero membro delle CCF, che è caduto e deve affrontare un intervento chirurgico. Quando abbiamo sentito questa notizia ci ha ferito nel cuore. Abbiamo bruciato un'auto per mandarti i nostri più caldi saluti rivoluzionari, compagno, per lasciare sapere ai nostri nemici che nessun rivoluzionario sarà lasciato sola. Forza fratello, fuoco e saluto è per te. Agli altri membri delle CCF, all'anarchico rivoluzionario Mavropoulos, tutti voi non siete mai soli. Le nostre azioni sono anche la vostra vendetta. Non per dimenticare i nostri fratelli in Italia, sequestrati dallo Stato e rinchiusi dietro le sbarre, ad Alfredo Cospito e Nicola Gai, i nostri cuori saranno sempre con entrambi. Vogliamo mandare anche i nostri saluti rivoluzionari a Villa Malias e a tutti gli spazi liberi che vengono invasi dai nostri nemici, a tutti gli occupanti che vengono sequestrati dagli sbirri. Il vostro coraggio ci ispira e ci mantiene a testa alta. Fuoco è il nostro modo di nominare la solidarietà. E a tutti gli anarchici prigionieri, Ivan e Carla, Freddy e Marcello, Freddy, Marcello e Juan in Cile, Henry in Bolivia, John Boden, Gabriel Pumba da Silva, Marco Kamenich e altri intorno al mu altri in tutto il mondo. Questo fuoco è la metafora di abbracci da noi pieni di rispetto, solidarietà e rabbia contro il potere. Cellula Agirou, International Conspiracy for Revenge, Fronte Rivoluzionario Internazionale, Federazione Anarchica Informale. E questo era il testo di rivendicazione in solidarietà sia per Panagiotis, che l'abbiamo detto già nelle prime dirette di quest'anno. Praticamente la notte del 31 dicembre, il compagno delle CCF è caduto dal letto a castello della sua cella, ha battuto la testa a terra, ha dovuto subire già due interventi chirurgici per levargli alcuni ematomi che si erano formati all'interno della testa. Come ci diceva l'aggiornamento, ora gli stanno facendo questo trattamento con questo farmaco ed è stato sospeso anche questo. Speriamo che Panagiotis si rimetta in sesto al più presto. Noi mandiamo un brano che è quello che poi da cui prende il jingle Radiazione, poi si torna qua, un paio di cose e poi musica ancora. Non Existent, loro erano Neurotech. Allora, loro, è lui, perché è un solo membro che fa tutto, praticamente. Allora, prima di ridare tutti gli indirizzi utili per radiazione, un'altra brevissima azione che arriva da Larnaca a Cipro, dove nelle prime ore di martedì del 15 gennaio, l'auto di Giorgio Tasos è stata attaccata mentre era parcheggiata nel parcheggio della sua casa. L'auto del valore di circa 10.000 euro è stata completamente distrutta e praticamente Tasos è uno, non so se è il, come si dice, il capo del Partito Democratico di destra lì, oppure un membro normale. Comunque, un pezzo di merda attaccato. Giorgio Tasos, non c'è nessuna rivendicazione, è una notizia di stampa per ora, e quindi non diamo nessuna, cioè, non c'è nessuna firma. Nel caso arriverà, la leggeremo. Allora, ricordiamo gli indirizzi allora utili per la redazione, per la mail, per mandare tutto quello che potete mandare tramite la mail, i consigli come ci sono arrivati dal compagno di cui non faccio il nome, che ha dato un paio di consigli. Uno era per il podcast che si sta registrando in questo momento, siamo anche oltre che alla diretta, si sta registrando, sperando che tutti che tutto vada per il meglio, anche perché è la prima volta che si fa, quindi nel caso lo potete trovare già da stasera, la puntata di oggi la potete trovare sul blog di redazione, ci sarà una nuova pagina dove metteremo tutte le dirette data per data. No, non ci saranno ovviamente le dirette precedenti perché non sono state registrate, ma da oggi in poi lo si farà. Poi vedremo anche di arricchire un po' sta cosa. Boh, vedremo, vedremo. Là. Comunque, l'importante è già ci sia una registrazione, un podcast a disposizione per chi non può sentire la radio. Come il compagno che scriveva e ci diceva, ci proponeva il podcast. Allora, quindi la mail di radiazione, radiazione@autistici.org, per il blog radiazione.noblogs.org e per la radio listentumeradio.com, ovviamente sempre radiazione oppure dal blog di radiazione attraverso il banner ci cliccate su e vi accende la radio. Non accendete la radio quando non sono giorni di diretta e orari di diretta perché non ci troverete una sega nulla. Allora, per oggi penso che con le notizie di Controinfo abbiamo finito. Ci ascoltiamo un po' di musica. Ovviamente diamoci questo spazio che sono le 17:35, dalle 17:35 fino alle 6 come musica. Nel caso c'è una notizia, arriva un'email, arriva un qualsiasi altra cosa. Si fermerà la musica come abbiamo fatto già in altre occasioni e si dà la notizia. Comunque, prima di lasciarvi, ci risentiremo anche se non ci sono notizie per darvi appuntamenti e notizie per le prossime dirette d'azione. Allora, si parte con Die Krupps, il brano è Bloodsucker, con questa playlist che ci accompagnerà fino alle 6, salvo interruzioni per informazioni, e ci sentiamo dopo. Got you. your own heart. Cause you can never win. Bloodsuckers steal from the earth, give for the riches and decide what it's worth. Allora, sono di parola, l'abbiamo trovata, ancora una buona azione, un'azione al giorno toglie il medico di torno, toglie i rompicoglioni di torno, ci leva un peso in più dal nostro animo. Allora, ci siamo ascoltati The Acroops con il brano Bloodsucker, invece ora la notizia ci arriva da Buenos Aires, Argentina. C'è un testo prima di questa rivendicazione, va tradotto, quindi evito di tradurlo così velocemente pure male, giusto l'ultimo pezzo, cioè andiamo a leggere. All'inizio di martedì 15 gennaio abbiamo attaccato con un ordigno incendiario una concessionaria della Fiat, dobbiamo riconoscere che non l'abbiamo danneggiata gravemente, ma noi sappiamo che la nostra guerra non si basa esclusivamente sui risultati, ma sulla convinzione con cui le cose vengono fatte, e l'abbiamo fatto in solidarietà con i nostri compagni sequestrati in Italia e nel mondo, pensando alla nostra base correlata che stanno fermi nelle loro idee, anche dietro le pareti o a sfuggire dalle grinfie del bellissimo stato del volo degli insorti sotterraneo. Salute e complicità eterno con i nostri fratelli e le sorelle della Federazione Anarchica Informale nella regione argentina, nella nazione dovrebbe essere. Guerra allo Stato e ai suoi sostenitori. La firma è originale, oddio, non è proprio originale, è una ripresa di una delle prime sigle con cui sono arrivate i primi attacchi in Italia da parte della Federazione Anarchica Informale. Infatti riprendono questo nome questi compagni argentini, chiamando questa cellula della Federazione Anarchica Informale Artesanos Core Fire and Allied, sarebbe artigiani di fuoco e affini, di cui penso chi ascolta la radio, chi sa un po' di storia sulla Federazione Anarchica Informale, sa benissimo che sigla è una delle sigle che dal 2003 ha iniziato a fare guerra allo Stato, in particolar modo era il periodo in cui la FAI ha attaccato i siti che erano collegati con la Spagna, in particolar modo con i FIES, insomma. Spero che per stasera riuscite a trovare anche la traduzione per questa rivendicazione sul blog, altrimenti domani, in giornata, la troverete di sicuro. Allora, si ritorna ancora con la musica, nel caso ritorniamo se si trova ancora un'altra notizia. I prossimi sono Nitzer Ebb con il brano Murderhouse. Time to know. discovery is to be disowned. Our currency is flesh and bone. Hell, open up and put on sale. Get around and haggle. For hot cash, we will lie and deceive. Even our masters don't know the web we weave. One world, it's a battleground. One world, and we will smash it down. Invisible transfers, long distance calls. Hollow laughter in marble halls. Steps have been taken, a silent uproar has unleashed the dogs of war. You can't stop what has begun. Sign, seal, they deliver oblivion. We all have a dark side, to say the least. And dealing in debt is the nature of the beast. One world, it's a battleground. One world, and they smash it down. The dogs of war won't capitulate. They will take, and you will give. And you must die so that they may live. You can knock at any door, but wherever you go, there before. Well, winners can lose and things can get strange, but whatever you change, you know the dogs remain. One world, it's a battleground. One world, we are going to smash it down. Allora, abbiamo finito con questa mini playlist, terminato con Laibach, Dogs of War. Per oggi la diretta d'azione finisce qua. Lo ricordo a chi si è connesso da poco sulla radio, a chi non ha sentito prima, che praticamente da stasera sarà disponibile sulla pagina, sul blog di Radiazione, che è radiazione.noblogs.org, saranno disponibili le dirette d'azione registrate, il podcast. Quindi per chi si è persa la diretta d'azione, per chi deve lavorare come compagno che ci scriveva, o per chi c'è da fa i cazzi suoi, e non vogliamo sapere che cazzi deve fare. E praticamente quando vuole potrà andarsi a riascoltare diretta per diretta sul blog di Radiazione. Troverete il link, si aprirà il lettore e praticamente vi ascoltate la diretta se volete, ovviamente. Allora, appuntamento è per quanto riguarda redazione diretta d'azione, è per lunedì ore 16, orario sempre lo stesso, 16-18, possiamo sgarrare di qualche minuto, ma più sul finire che sull'inizio, all'inizio siamo sempre precisi. E, ricordo che lunedì si continuerà la lettura di Black Flag con il nuovo capitolo. Si intervallerà il capitolo di Black Flag con le notizie di Controinfo, con un po' di musica, e alla fine si doveva mandare oggi, ma la spostiamo direttamente a lunedì dopo la diretta di azione, quindi dalle 6 in poi manderemo per intera tutta l'intervista a Costas Gurnas sul caso di lotta rivoluzionaria, per chi non l'abbia sentita ancora, che è disponibile anche sull'altra radio dei compagni, Radio Cane, che abbiamo trasmesso anche già su Radiazione un bel po' di volte, e lo continueremo a fare tutte le fine dirette d'azione per un periodo, quindi da lunedì diretta d'azione classica, quella del lunedì con lettura, Controinfo e musica, e poi dalle 18, quando normalmente finisce la diretta, andrà in onda l'intervista completa, un'ora di intervista con il compagno Costas Gurnas, che ci spiega un po' tutto, come è nata il gruppo Lotta Rivoluzionaria, gli attacchi, la morte di Lambrus Fundas, gli arresti, un po' tutto praticamente. Un'oretta molto interessante, per cui si ringrazia sia i compagni di Radio Cano che hanno messo a disposizione il link, che i compagni di Radio 98 FM di Atene. Allora, ci andiamo ad ascoltare, prima di finire la diretta, due brani. Uno è Time Tiffany con il brano Show Me What You Got, e il secondo è di Sarah Knox con il brano Stupid. Quindi appuntamento a lunedì.